saggezza tutta l'alma inebriava, e il cuore sempre alzava, mi forzava a proferir. L'insolita dolcezza tutta l'alma inebriava, e il cuore sempre alzava, mi forzava a proferir. Gesù mio, Gesù mio, io con voce sospirosa, ma soave ed amorosa, io sospiro il tuo Natale. Bambinello bello, bello, vieni, vieni, non tardare. Bambinello bello, bello, vieni, vieni, non tardare. La tua immagine vaga e bella, mio carissimo bambino, come l'astro mattutino, bello e sia tutto splendore. Io sospiro vagheggiarti e tenerti stretto stretto sopra il cuore e sopra il petto e baciare il tuo visino. Bambinello bello bello, vieni vieni, non tardare. Bambinello bello bello, vieni vieni, non tardare. Bambinello bello bello, vieni vieni, non tardare. Un'insolita dolcezza tutta l'alma inebriava, e il cor in sembra alzava, mi forzava proferir. Bambinello bello bello, vieni vieni, non tardare. Bambinello bello bello, vieni vieni, non tardare. Bambinello bello bello.